oggi dormito senza male le panze. Allora we, oh, lieve danze. Stanotte oggi dormito senza male le panze. Che cosa ti hai mangiato che ti ha fatto male? Tenia televisione 36 canali. Allora we, oh, lieve talonca. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Soldo Milan. L'accordatura dell'ukulele. Sì, ricominciano a grande richiesta le lezioni di ukulele alla radio. Abbiamo fatto anche, anzi, Kappa hai fatto questo bellissimo disegno di sì, te che suoni. Sto insegnando Finocchi Cotti, esatto, i primi due accordi di Finocchi Cotti. Però ho visto subito che è scoppiata una polemica su un accordo G più G aumentato, sol aumentato. No, perché io ho scritto G 5 più, cioè che sol il sol con la quinta aumentata. Ah, con la quinta aumentata. Però si dovrebbe scrivere o G aug o G più senza il 5, perché se scrivi G 5 vuol dire che fai il power chord. Ma sono computer, G5, PowerPoint. Cos'è? No, PowerPoint, drago, il power chord. G5, non è quelli che usavano gli Who, cioè dove tu suoni dell'accordo solo la prima, cioè la tonica, e la quinta. Hai capito? Se scrivi G5 più non va bene, però in realtà l'accordo va benissimo. Perché quale infatti sarebbe? Finocchi Cotti fa così. Però K, 7, 8, 10 mesi, un anno che andiamo avanti con la canzone di Finocchi Cotti. Andremo qui, ancora avanti, perché io sto insegnando gli accordi. Guarda, qui, no, rischiamo veramente un tracollo, di ascolti. Quindi, ma che ascolti? Ma Drago, ma c'è ancora lo spauracchio dell'Audi Radio? È il mio pensiero fisso del 2012, l'Audi Radio. L'Audi Radio, sì. Fosse l'autoradio, che almeno in macchina con te si passa un po' il tempo. No, l'Audi Radio. Drago, l'Audi Radio non esiste. Ma tu come fai a dirlo che non esiste? Ma lo sanno tutti. Ma devi provarmela come resistenza o non esistenza di Dio. Non basta dire Drago, cosa dici? Non basta dire esiste o non esiste, bisogna sempre aggiungere qualche paradosso, qualche sillogismo che ti convinca che Dio esiste o non esiste. Ci sono stati secoli di filosofia, Drago, gente. L'Audi Radio l'Audi Radio è stato messo in stand by da un bel po' di tempo, perché ci sono stati un sacco di complicazioni che hanno a che fare con i criteri usati per raccogliere i dati, scritti, mica scritti, le interviste telefoniche, cosa ascoltavi oggi, una settimana fa, non prima, possono dopo mettere tipo e quindi delle cose elettroniche nella testa della gente per Drago, capire. Dopo un po' ci si è accorti tutti quanti che i dati che arrivavano dal Feticcio Audi Radio erano sballati, senza fondamento, fuorvianti, capito? Ho capito, e gli inserzionisti? Gli inserzionisti non è cambiato niente, la pubblicità per radio continua a farsi come se prima, se non più di prima, di prima. E tu te lo sei chiesto il perché? Perché cose come l'Audi Radio non servono a niente. No, ma perché è entrato in scena l'Audi Radio clandestino. Clandestino, Drago, ma non ci credi, ma nessuno ti obbliga a crederci. No, comunque tu continua a chiederti come mai, in assenza dell'Audi Radio ufficiale, la pubblicità per radio va a gonfie vele. Sarà sempre perché costa meno, Drago, costa meno di quella televisiva. Sì, intanto, ma scusa, ma se tu non sai quanti ascoltatori ascoltano la tua pubblicità, su che cosa ti basi? Ma non lo so, ma adesso improvvisamente tu devi fare della pubblicità in radio. Subito appena parli dell'Audi Radio viene l'ansia. Hai capito? L'Auditel clandestino, K. Ci vanno gli ansiosi. Migliaia di radioascoltatori partecipano segretamente a questa versione underground dell'Audi Radio. E ormai è l'unica fonte dei dati d'ascolto. Poi io qui dovevamo chiudere il blocco, ma io non ho proprio idea di dove andare a finire adesso. E ora, bambini, ricreazione! Ioris, ciao Albert. Ciao, io adesso devo fare un freestyling, no? Io sono freestyler. Faccio il freestyling, adesso non mi fare spiegare. Tipo rap, no? Espressione. Ah, ok, bello! Sì, ma siccome non c'è Gildo, che lui di solito ha il touchpad per mandarmi la base, no? Io scelgo la base e su quello faccio il freestyling. Wow! Tu che dovresti avere il mio telefonino vecchio, quello faceva anche da. Oh, c'è il tuo tablet, c'è il tablet, mi puoi mettere la base tu? Sì, certo! Io ce l'ho qualche base bella! A me piace il funk! Ah, beh, fai freestyling anche tu? Sì! Aspetta un attimo, trovo subito un attimo la base e mo te la mando. Ah, ce l'hai? Sì, aspetta! Ma no, fai anche tu freestyling? Sì, ma questo è stimolante, no? Ok, vai che te la mando! Vai! C'era un megafono e urlava tutto il giorno e diceva: adesso vi presento Bambino Alberto! Bambino Alberto! Lo sai che un giorno mi sono svegliato, mi ha chiamato un mio amico ed era dentro in un prato, mi ha chiesto: "Vuoi facciamo una partita a pallone?" Ho detto: "Chiama Berto, ma quello è un pallone." Alright! Non è mica finito, perché ero del Milan, ero il capitano della squadra, c'erano 80.000 spettatori e tutti che urlavano: "Bambino Berto!" Guarda che bello, lo sai, sai perché urlavano tutti quanti? Perché c'erano i tifosi, c'erano quegli altri. Ma tu non è che eri la palla. Adesso mi rotto con la storia della palla. Io ero il capitano del Milan. Avevo la maglia a strisce rosso e nere. Ma poi mi sono svegliato e sono andato a bere. E ora, bambini, e tutti a casa. News and talk, K. Adesso basta con tutte. Sì, news and talk. Anche se siamo alla fine. Dobbiamo attraversare la strada. Ho capito, però dai, in extremis parliamo di cose serie. Sì. Parliamo del caso Pisapia e le carote. Eh? Eh sì, Pisapia e le carote. Il cronista d'assalto di Libero, un giornale di destra, sì, è stato spedito in prima linea per fare uno scoop su Pisapia e le carote, capito? Ma... nelle mense delle scuole elementari ci sono stati dei casini perché hanno servito delle cose biologiche. Tra queste cose biologiche, prima del pasto del mercoledì, vengono serviti dei tronchetti di carota, che però sono troppo grandi. Ma cosa stai I bambini dicendo? Che stanno cambiando i denti non riescono a masticarli, è venuto fuori un putiferio. Libero ha fatto una cosa solo, basta con i menù della sinistra. È così, cioè, della sinistra, è certo, ma scusa, ma Libero, piuttosto di occuparsi delle carote crude, perché non protesta contro i finocchi cotti? Gli andiamo dietro, vuoi sapere perché? È certo, però i finocchi cotti non li ha messi nel menù la giunta Pisapia. Però guarda, i finocchi c'entrano comunque, vedi? Perché il biasimo di Libero non è solo per i tronchetti di carote crude, ma anche per i tronchetti di finocchi crudi. Capito? Finocchi, vedi? Tutte innovazioni di sinistra, ovviamente sbagliate. Ma vedi che questo Pisapia non ne indovina una. Per forza, c'ha la stampa sempre pronta a fargli le pulci. Che l'articolo del cronista d'assalto Massimo Costa ha un attacco che deve aver fatto tremare le vene ai polsi del sindaco Pisapia. Vuoi sentirlo? Mi sento preoccupato, Drago, davanti a queste cose. Vai! La rivoluzione delle mense arancioni si incaglia sulle gengive dei bambini. Si fa presto a parlare di svolta biologica. Poi bisogna fare i conti con i denti da latte. Ma scusa, ma tutta sta roba qua per dire che erano meglio i finocchi cotti della Moratti? Sì, però se la Moratti passa a Futuri Libertà, vedrai che il cronista d'assalto Massimo Costa farà il suo sporco lavoro anche contro i finocchi cotti. Della Moratti? Certo. E fa pure rima. Cosa? Finocchi, Moratti. Insomma. Questo è molto divertente.